Messaggi che mi plagiano, lo spirito divino si è fermato a Kabbalah. Ah, è una città ridente dove tanta gente fa l'amore e non si pente. Kabbalah è una città in festa dove l'allegria non si vende e non si presta. Dove si trova Kabbalah, che è immersa in uno spazio di follia, al confine tra il mistero, la parola e la realtà. Note su cui danzano le strade ad un ritmo di ballate che non hanno identità. A Kabbalah il tempo non si spreca a pensare e ricercare una presunta libertà. Viva! sogno di scegliere, non ne credo a sterili sondaggi, dalla semplicità dei linguaggi, portatori di stati messaggi, prendendolo gli veri assaggi, alla fine perciò prendo coraggio, faccio un viaggio se vedo un miraggio, non mi fermo, proseguo il mio viaggio, per sentirmi più libero e saggio, come il sole risplende ogni giorno, certezza sicura che tramonterà, faccio un viaggio e prevedo un ritorno, alle braccia di chi mi accoglierà. We'll be right back. Ciao me pass by Silecta. Dedicato a chi ci crede ancora. Noi ci mettiamo la faccia. Yo voglio vivere, sole non brucia più a Napoli. Stato anomico, visto che qui ormai ognuno fa un po' quello che gli pare, quello diciamo un po' quello che crede di. Noi abbiamo scritto un pezzo che si chiama Stato anomico. È una storia che parla di un uomo che allevava dei cani. Ho visto un uomo che lupiva, aveva in testa una strana cosa, mi sembrava una rosa, aveva con te tanti cani grossi e bianchi, mi guardava come fossero suoi figli. bella. Arriva, eh? Potrei parlare fino a mettere la voce affinché tu possa essere più audace. Tempo non sempre è la migliore cura per risolvere i problemi, ma ci vuole una sana riflessione per capire concetti e teoremi, una mutabilità, un po' di lungimiranza che brucia la noia che avanza. Mi piacerebbe che tu fossi in grado di capire come girano le cose. Sotto il muro, se tu costruirò un futuro più sicuro, che io scuro un futuro più maturo, più sicuro, e non sbagliare il mio mondo sotto il muro. Solite parole di chi gioca con il sangue della prole, prove sulle prole. Quando ti passa un'idea per la testa, non lasciare che nessuno ti basta. Che fermi la tua forza che devasta, come la potenza di una semplice voce che vince. Grazie. Già, create an earth in the service of man, to purify the soul, to clear the brain, to cure the strength, and to take the memory. voci che ci portiamo dietro grazie alla tecnologia. Ranking Alpha, Mr. David. Tutto in primo piano. Ok ragazzi, questo è l'ultimo brano. Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi del centro che ci hanno ospitato qui. Noi sosteniamo il cartello. Grazie ai tecnici, ciao Teresa, alla prossima. Sono le distanze. Ci sono in giro ancora troppe latitanze. Tra maggioranza e minoranza non ci sono differenze, ma poche militanze. Di notte si aprono le danze, mastica trippe che damina e simili sostanze hanno creato un nuovo mostro che sta sempre in astinenza, un nuovo mostro che si chiama indifferenza. C'è ancora gente che parla di razza, gente che parla di istinto, gente che parla di chi è superiore in un contesto democratico capitalista pacifista, gente che parla di sesso, gente che legge meno spesso, gente che piace in prima classe guardandosi le spalle in situazioni diverse. C'è ancora gente che parla di pace, ma tra le mura domestiche è tutto tace. Gente che parla di rifiuti riciclati, tra le strade ci sono pensieri di viaggi. Gente che cura il suo lume, gente che guarda il mio lume, gente che spende, che guarda, che cura, gente che cura il suo lume. Dice va bene la vita, dicero para todo el país. Una visa que es no por trouble, no fight all the world. Situazione che circonda il tuo vissuto, la tua intera dimensione, quando senti quella voce che ti dà soddisfazione, emozione. Qualcuno mi spieghi la differenza tra evoluzione, cambiamento e mutamento. Qualcuno mi spieghi la differenza tra evoluzione, cambiamento e mutamento. Cosa è normale, cosa è normale, ma quanto mi assale la voglia di tornare su me. Quiero para todo el país. Ok, abbiamo deciso di farvi un regalo, facciamo un ultimo brano, però lo dobbiamo ballare tutti all'impiedi lì sulle gradinate. State lì seduti da circa più di un'ora, quindi adesso possiamo ballare l'ultimo brano, More Sentimento. Passeggia sulle spiagge del Salento, è il sale sulle labbra che l'ha messo il vento, e mi invade ogni sera uno strano sentimento. Brucia la scintilla, il mio corpo in movimento, profumo di un prato, un'erba bagnata. Sono il ricordo di un'estate passata, il mio corpo tumulta nell'attesa del contatto, il mio corpo tumulta nell'attesa del contatto. Nelle tue labbra succhiando tutta la loro volontà, è un incrocio di sguardi, di mani, di lingue, a pezzo di briti, dall'alito vibrato, questo circo di uomini impazziti, tra tanti giornali con titoli inganditi. Lei cammina sullo spazio e sul cemento, fioriscono le more, germoglia un sentimento. brevi ma forti mi percorrono. C'è tanta storia che narro fino a strofe. Ricordo le tue guance come fossero al di coppe, le tue guance come fossero al di coppe. Il rosso, le nostre subsoniche, il massiccio bassosio, suoni e tutto ciò che sentite, trame basse. Io sono Lello, ciao, grazie ragazzi del Cartella, ritorneremo. Va bene ragazzi, siamo in viaggio da circa 72 ore, quindi faremo un altro brano per voi, grazie, grazie, grazie di cuore. Palcoscenico, ci sono i nostri dischi, portate a casa un po' di buona musica indipendente, indipendente. Grazie! Tu gagno che brado gai che tu ama, tu gagno che brada, tipo che tu gagno che brada. Indios, frode, i indios! Tu gagno che brado gai. All I get to is to listen to the times falling in a breeze. again, brother. Cartella vive. E questa è la dimostrazione. Noi ci mettiamo la faccia.